percorrerò la tua oscurità. Tu, fruscio, vento mio, che ti agita, ti sfiorerò con le dita nel buio. Scioglierò le nebbie del no, sì, per un attimo, per un attimo, per un attimo, nei desideri del cuore, nella notte che cambia colore. E le mie unghie sul cuore avrai oh. Quanto coraggio ti chiede l'amore. Uragano non fare rumore. Abiterò nel tuo giovane cuore per sempre. Io sarò un indio per te. C'è e vivrà qui con noi, sì, l'incantesimo, l'incantesimo, l'incantesimo, nei desideri del cuore, nella notte che cambia colore. E le mie unghie sul cuore avrai oh. Quanto coraggio ti chiede l'amore. Uragano non fare rumore. Abiterò nel tuo giovane cuore. Sarà per sempre. Io sono l'indio che va. Io sono l'indio che va. Io sono l'indio che va. Io sono l'indio che va verso il sole, nella notte che cambia colore. E le mie unghie sul cuore avrai oh. Desiderio d'amore che sale, un Atlantide fuori dal mare. Abiterò nel tuo giovane cuore, sarà per sempre. Io sono l'indio che va.